si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. L'appuntamento il sabato e la domenica a mezzogiorno su Radio 24 con Si può fare. Cerchiamo un po' con il lanternino di questi tempi le buone notizie della settimana e anche cerchiamo di scovare le nuove tendenze per capire che cosa ci salverà. Seguiteci anche su Facebook, Si può fare, trattino Radio 24, perché no, anche su Twitter, Ale Maurizi. E poi per i più timidi c'è ancora la mail, si può fare, @radio24.it. Segnalateci le vostre buone notizie, le vostre notizie della settimana, cose così. Tanto per iniziare, a Bologna nuovo volto per le piazze del centro, i cittadini potranno dire la loro. Oltre 4 milioni di euro messi a disposizione dal comune per riqualificare, per chi conosce la città, piazza Malpighi, San Francesco e Aldrovrandi. Passeggiate di tecnici ed esperti aperte al pubblico, i bolognesi potranno esprimere le loro opinioni anche in rete su come riqualificare queste piazze. Se volete partecipare andate su www.dinuovoincentro.tumblr.com oppure andate su Twitter con l'hashtag Di Nuovo in Centro, oppure su Flickr ancora, caricando le foto nel gruppo Un Giorno a Bologna. Vi ripeto, potete dire la vostra su come riqualificare queste zone del centro. E noi di riqualifica e di riutilizzo degli spazi, in questo caso dismessi, parleremo con una importante iniziativa del WWF tra poco. Seconda notizia ci porta a Foggia. Assenteismo, 5 arresti, timbravano il cartellino e poi andavano a fare la spesa oppure si registravano in posti di lavoro diversi da quelli assegnati. In manette per truffa aggravata sono finiti una psicologa e degli infermieri. Ora voi direte, c'è da fare il processo, tutto quello che volete, intanto però li hanno presi con le mani nel sacco ed è una buona notizia, perché insomma chi invece andare a lavorare si fa gli affari suoi alla faccia di tutti quegli altri, è giusto che venga pescato e punito. Terza notizia, più che altro una segnalazione, un appello viene da Roma: tutti a cena alla Locanda dei Girasoli, il locale dei giovani disabili non deve chiudere. La Locanda dei Girasoli è un ristorante nato nel 2000, gestito da un gruppo di ragazzi affetti dalla sindrome di Down. Il locale a due passi dalla via Tuscolana, leggiamo, in via Sulpici 117, oggi rischia di chiudere a causa della crisi economica che ha coinvolto molti esercizi di ristorazione. Leggiamo da Repubblica.it, cronaca di Roma. E allora il presidente del decimo municipio Medici lancia l'appello: romani, andate a mangiare nel locale più buono e solidale di Roma. Ripeto, tutti a cena alla Locanda dei Girasoli per salvarla dalla crisi. E una cena proprio in questo senso ci sarà il 7 dicembre. Se volete, cari amici romani, potete partecipare. Vi ricordo anche che potete usare la nostra segreteria telefonica per lasciare la vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto, cose così. Io toglierei tutte le carte dei BUR, delle leggi, una copia sola depositata, tutto il resto online. Ogni deputato ha ormai l'iPad e si legge direttamente lì, quindi tutta la carta eliminata. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. C'era una volta, ma neanche tanto tanto tempo fa. C'era un bel paese con tantissime bellissime città. Con vasche, pescioni e tanti fiori di lilla. Ma non era certamente il Canada. Oh, c'era una volta un paese che non dico che non so, con tanta gente colta, che più colta non si può. Ma un destino ladro lo aveva condannato per 100 anni ad essere attraversato. L'ultima campagna del WWF per salvare niente po' di meno che l'Italia. Le cifre del consumo di suolo sono infatti impressionanti. Pensate che nei prossimi 20 anni 75 ettari di suolo sono a rischio al giorno. di essere cementificati, e le iniziative in questo senso si moltiplicano. In Veneto la giunta Zaia, l'abbiamo già detto, sta studiando come bloccare anche i permessi già dati per costruire. A Parma una mozione all'unanimità in consiglio comunale, c'è il DDL del ministro Catania su questo. Prima di tutto però bisogna riutilizzare gli spazi esistenti dismessi, ed è quello che fa la campagna del WWF. Ne parliamo con Stefano Lenzi, buongiorno, del WWF. Perché è così importante riutilizzare, Lenzi? Poi ci spiegherà in cosa consiste questa campagna del WWF. Beh, innanzitutto voi l'avete detto, quei dati appunto sui 75 ettari al giorno che rischiano di essere cementificati già oggi, ma per i prossimi 20 anni, fanno temere, diciamo, sull'integrità del territorio. Ma già oggi appunto nel nostro paese noi ricordiamo appunto un altro dato, che non si può tracciare un cerchio del diametro di 10 chilometri senza intercettare un nucleo urbano. È noto che l'Italia è densamente urbanizzata. Il problema è che si pensa che il suolo sia una risorsa, diciamo così, rinnovabile, invece anche il suolo si perde definitivamente, o comunque per rinaturalizzarlo ci vogliono centinaia di anni. Da qui l'idea appunto di fare un censimento, ma non delle aree, perché le aree le censiscono i comuni, ma un censimento delle proposte, idee, progetti di riutilizzo sociale e ambientale di aree appunto abbandonate, marginali, degradate, in modo da dare un segnale chiaro che si deve fermare il consumo del suolo, ed è possibile anche una riqualificazione urbana, una riqualificazione dell'ambiente appunto indicata e suggerita dai cittadini. Perché insomma quello che ha spinto in questi anni a costruire, oltre che diciamo l'aspetto economico dei posti di lavoro e degli investimenti, poi sappiamo come può andare a finire anche con la Spagna e la bolla immobiliare, ma lasciamo perdere, è comunque la possibilità di dare fiato alle attività commerciali. Diciamo invece che con il riutilizzo e con il recupero di aree dismesse, noi per il poco che possiamo fare, dai microfoni si può fare, abbiamo citato alcuni casi, a Ferrara lo spazio Grisù, dove in una ex caserma per esempio dei vigili del fuoco si sta creando un incubatore per aziende del mondo della cultura e dell'arte. Cioè si può, riutilizzando gli spazi, dare comunque un contributo alla crescita anche dell'economia. Vogliamo fare anche qualche esempio di qualche riutilizzo, di qualche recupero, così che chi ci sta ascoltando può capire come partecipare a questa iniziativa Riutilizziamo l'Italia? Ma è un recupero, diciamo, simbolico abbastanza famoso, è quello dell'ex mattatoio a Roma, che è stato recuperato, ed è un'area di notevole ampiezza, fra l'altro nell'area storica del Foro Boario, di antica memoria, diciamo, della città antica, appunto a utilizzo sociale e culturale, quindi espositivo, e anche con esercizi, ma compatibili poi con la destinazione d'uso. Ma ci sono poi diciamo intenzioni di recupero e di riutilizzo che vanno da appunto le singole cave abbandonate a appunto piccoli parchi urbani. A Bologna c'è stato appunto il recupero di alcuni giardini che poi sono stati affidati direttamente al WWF. Il problema è appunto cercare, con l'iniziativa Riutilizziamo l'Italia, che queste segnalazioni, e già ce ne sono arrivate negli scorsi giorni centinaia, appunto servano a dare il sentore che ci sia appunto una mobilitazione in tal senso. Tanto per capirci, 10 giorni fa abbiamo dato i dati su 250 segnalazioni, sì, e appunto il 65% riguardava aree edificate e abbandonate, il 10% terreni incolti, o l'8% terreni incolti in evoluzione, che vuol dire appunto dove già c'è un fenomeno di rinaturalizzazione, e il 7% ex cantieri. E poi si segnalano appunto le persone, poi dirò chi sono, organizzate o non, che c'è un fattore di rischio poi in queste aree, quindi non è un problema soltanto di abbandono del territorio, certo, ma anche di, ma anche poi di rischio anche in termini di sicurezza, rischio sociale. Riutilizziamo l'Italia, la campagna del WWF, resti con noi Stefano Lenzi, dobbiamo fare una pausa per il traffico, torniamo tra poco. Il WWF cerca progetti, idee per riutilizzare aree dismesse e dargli nuova vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci di nuovo in diretta con Stefano Lenzi del WWF, con il quale stiamo parlando dell'iniziativa Riutilizziamo l'Italia, un censimento non tanto di luoghi dismessi, abbandonati, quanto di proposte per dargli nuova vita, per recuperarli, un modo per combattere il consumo di suolo e il rischio cementificazione. Recentemente Lenzi, Lega Ambiente e CGL, con un bel rapporto, hanno stimato in 600.000 persone possibili nuovi occupati in questo settore della riqualifica, del recupero del patrimonio edilizio e del territorio in Italia, una leva che potrebbe essere nei prossimi 20 anni enorme. Si può pensare davvero, siamo pronti in Italia per un piano nazionale, ovviamente portato avanti prima di tutto dal governo, per dare spinta a un piano nazionale, sì, di recupero di tutto il patrimonio edilizio? Rendiamoci conto innanzitutto che diciamo gli incentivi, quelli del 55% per l'efficientamento degli edifici e del 36% proprio per il recupero appunto sempre degli edifici, sono stati quelli che hanno trainato il settore dell'edilizia in tutti questi anni, per cui ogni anno appunto si trattava di diciamo così recuperare la memoria. Qua appunto in particolare però stiamo parlando appunto di non consumare una nuova risorsa come il suolo per a vantaggio diciamo così di recupero di aree, per esempio ci sono tutte le ex aree industriali di tutto quanto il centro nord Italia, ma tanto per dirne un'altra c'è tutta la Capannonopoli sì, del nord-est, sì. Ha calcolato che se si calcola soltanto appunto lo sviluppo dei capannoni in Italia siamo a 700 chilometri quadrati, una cosa impressionante, e molti purtroppo per via della crisi sono vuoti, ma al di là della crisi insomma c'è molto da recuperare, insomma, anche se alcune attività commerciali ripartissero, noi ce lo auguriamo, però c'è sicuramente molto da fare in questo senso, molto, certo, da recuperare. Tra l'altro 700 km quadrati, per capirci, vuol dire 6 volte l'area metropolitana di Napoli, tanto per dare un parametro. No, è impressionante, sì. Poi ci sono anche diciamo le aree del demanio ferroviario che non sono più utilizzate, riguardo a questo c'è da ricordare che ci sono circa 5.000 chilometri di linee non utilizzate, fra l'altro, e di cui appunto 502 sono i tratti di chilometri incompiuti, 940 chilometri di linee con tratta variata, che vuol dire che ci sono quasi 7.000 chilometri di tratte ferroviarie dismesse attorno al quale poter operare. Insomma, le aree insomma non mancano, urgono soprattutto progetti per ridare vita a queste aree. Voi avete fatto la vostra con questa iniziativa. Lenzi, l'ultima cosa, vogliamo dire come si fa a mandare i propri progetti, le proprie idee, quali sono i canali? Sì, certamente, c'è appunto la nostra pagina sul nostro sito, quindi www.wwf.it/riutilizziamolitalia, si accede appunto alla parte dove si può, certo. E fra l'altro ultima cosa che volevo dire, che la questione molto interessante è che appunto già adesso dai primi arrivi noi abbiamo il 42% dei cittadini che chiedono appunto di utilizzo di aree già edificate, il 54% che indica soluzioni di rinaturalizzazione o agricole. Ricordo che la scadenza è il 30 novembre, quindi avete e abbiamo ancora tempo qualche per giorno. Segnalare. Grazie allora a Stefano Lenzi del WWF per averci parlato di questa importante iniziativa. Staremo a vedere, speriamo che arrivino tanti progetti e speriamo che anche la forza del WWF renda poi alcuni di questi progetti realizzabili da parte di chi poi avrà le competenze per fare tutto questo. You can't talk to me like that, boss. Boomtown work ain't hard to come by. Boom. Avete sentito l'iniziativa del WWF Riutilizziamo l'Italia, ma non solo il nostro territorio va salvaguardato da quello che possiamo senz'altro definire uno sviluppo negativo, quello della cementificazione, ma anche il mondo del lavoro e delle nostre conoscenze, delle nostre tradizioni può e deve essere salvaguardato. Parliamo del lavoro degli artigiani. Salvare gli artigiani potrebbe essere questo il senso, soprattutto quelli che fanno il riciclo, dell'iniziativa della Decrescita Felice Social Network. Ne parliamo con Simone Zuin. Buongiorno. Buongiorno a voi. Un'iniziativa per censire gli artigiani in tutte le città, segnalarli. E che cosa, Simone? Diciamo che abbiamo intenzione di realizzare il più grande archivio di artigiani che dedicano la propria attività al riutilizzo di materiali, al riciclo e alla riparazione. Questa idea ci è venuta qualche tempo fa mentre scrivevamo un articolo sull'obsolescenza programmata e confrontandoci. Su che cosa, Simone? Per noi comuni mortali, l'obsolescenza programmata non è altro che la vita programmata in fase di progettazione di un oggetto. Cioè oggetti fatti per durare poco, così si ricomprano. Esatto. Che è un po' la parte maligna dell'industria, sì. Sì, esatto, ma ci sono anche corsi universitari su questo argomento, quindi non è solo maligna e in alcuni casi è proprio voluta. E l'idea, comunque dicevo, appunto, che ci siamo resi conto che questi oggetti si rompono magari anche per banalità, ma nessuno di noi poi sa dove portare questo oggetto a riparare, e da qui nasce l'idea appunto di creare questo archivio che noi abbiamo chiamato gli artigiani della decrescita. È verissimo, io posso testimoniare come chiunque, tra l'altro è capitato a chiunque che si rompa il frullatore o che si rompa un armadio di casa o altri oggetti simili o anche completamente diversi, veramente non si sa dove andare a sbattere la testa. E chi ci consiglia, l'artigiano che riesce a fare questo, ci dà una notizia preziosa. Tra l'altro sono andato sul vostro sito, adesso ricordiamo anche i canali per partecipare, e devo dire che è suggestivo perché si vede la cartina d'Italia allargabile con già tutte le macchioline rosse, che i puntini che indicano dove è stato segnalato un artigiano. Si va sopra, si vede di cosa si tratta, si vede se è vicino a casa nostra, se ci interessa o no, ed è un progetto molto, molto bello, molto ambizioso. Come si fa per segnalare il proprio artigiano del cuore, Simone? Sì, sempre nella pagina dove c'è la cartina, sotto c'è un modulo, è sufficiente compilare i vari campi con le informazioni dell'artigiano e alcune altre informazioni relative all'attività. Una volta ricevuto questa segnalazione, noi facciamo la verifica che l'artigiano sia, cioè l'attività dell'artigiano sia coerente, sì, con il progetto, e poi viene pubblicata. Il nome del sito però non l'abbiamo ancora detto? Come, scusi? Il nome del sito, l'indirizzo del sito su cui andare? www.decrescita.com. Ok, abbastanza facile, si vede subito in apertura la parte relativa a questa iniziativa, si compila la scheda e appunto si segnala il proprio artigiano. Se vuoi farci qualche esempio delle segnalazioni che sono già arrivate, così uno capisce anche di cosa stiamo parlando. Sì, abbiamo ad esempio degli artigiani che riparano le scarpe, abbiamo un'artigiana che riutilizza vecchi vestiti per creare nuovi capi di abbigliamento, oppure c'è chi crea con materiali di recupero interessanti accessori d'arredo. Benissimo, a quanti siete? Quando è partita e quanto c'è tempo? Credo che il tempo non scada mai, perché se volete fare un grande censimento andrà avanti questo lavoro, no? Sì, è una cartina dinamica e non ha scadenza. Siamo partiti lunedì 19 novembre e contiamo entro Natale di avere alcune centinaia di artigiani. E guardate, cari ascoltatori, che non è una sciocchezza, perché può sembrare una cosa minimale. Certo, non è che ci cambia la vita un sito dinamico, una pagina, una cartina dell'Italia con tutti i puntini rossi con gli artigiani, però è una cosa a parte molto affascinante. È uno spazio per questi artigiani che spesso fanno un lavoro dimenticato, trascurato, ma che invece è essenziale, proprio perché va contro ogni logica di spreco, e se questo progetto riuscirà, io dico che sarà una bella pagina di informazione e anche di inchiesta, se vogliamo, perché, ripeto, è molto suggestivo vedere la cartina d'Italia piena di questi punti rossi. Saranno sicuramente sempre di più quelli veri di quelli virtuali, perché non si riuscirà mai a mapparli tutti, però insomma, Simone, speriamo che ne facciate molti il più possibile. Speriamo. Va bene, grazie. Decrescita.com è il sito per andare a segnalare in modo molto semplice il proprio artigiano del cuore. E anche questo l'abbiamo detto. Adesso è il momento della nostra segnalazione dal mondo. Si può fare la notizia più curiosa, più bella che siamo riusciti a scovare questa settimana. Andiamo in Inghilterra. Il premio di questa settimana va all'intera comunità di Todd Morden, in Inghilterra, dove i cittadini possono raccogliere gratuitamente e liberamente i prodotti freschi di stagione coltivati da tutti, direttamente nelle aiuole della città. Tutto è cominciato dalla casa di Pam Warwurst, che un giorno decise di affiggere un cartello fuori dall'orto, invitando i passanti ad entrare e raccogliere quel che preferivano. Nacque così un piccolo gruppo di attivisti che prese il nome di Incredible Edible, incredibile commestibile. La loro prima iniziativa è stata quella di dedicare ogni spazio cittadino disponibile alla coltivazione, dalle aree verdi nei parcheggi alle aiuole nelle rotonde, ai terreni abbandonati. I raccolti sono disponibili per tutti e tutti possono contribuire alla coltivazione. Le persone hanno risposto bene all'iniziativa, prendendo il necessario per sé e lasciando spazio a tutti coloro che desideravano usufruire degli orti in comune. Ma la missione di Incredible Edible va oltre il riutilizzo dello spazio pubblico. Il vero intento della comunità è quello di coinvolgere sempre più persone nel cambiamento dei comportamenti quotidiani, fino al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare della città nel 2018. È un obiettivo ambizioso, ma se i cittadini continuano sulla linea della collaborazione e della condivisione gratuita, allora forse si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati, cari ascoltatori. Vi aspettiamo sulla nostra pagina Facebook. Si può fare trattino Radio 24. Cliccate mi piace, siamo già in molti, diventeremo sempre di più. Aspettiamo soprattutto le vostre buone notizie nei vostri microcosmi, insomma, le piccole e grandi storie virtuose con la quale ogni sabato e ogni domenica vi intratteniamo da questi microfoni. Oggi siamo partiti dall'iniziativa del WWF Riutilizziamo l'Italia, un censimento di proposte per come ridare vita a aree, spazi dismessi, abbandonati, che siano capannoni industriali, che siano zone del demanio ferroviario, che siano semplici costruzioni abbandonate, come ridargli vita per dare uno stop alla cementificazione del suolo. E poi abbiamo visto con la Decrescita Felice Social Network come invece preoccuparsi di un'altra memoria che si può perdere, quella dei lavori artigiani, e quindi un censimento per segnalare gli artigiani di ogni città in modo che poi chi fosse interessato possa andarli a trovare, a stanare e a scovare le loro specializzazioni. Adesso, se il lavoro non c'è, me lo invento. Vedere la luce in fondo al tunnel può essere trovare un lavoro in questi tempi difficili di crisi, e c'è chi lavoro ce l'aveva ma ne ha cercato un altro e ha aperto un'altra attività in proprio questa volta. Parliamo di Alberto Ceretti, fondatore di EquoTube. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, una nuova iniziativa, un nuovo concetto di vacanza dalla smart box, potrei dire io per semplificare, quelle scatolette che si regalano con dentro dei piccoli pacchetti vacanza anche sotto Natale per esempio, al tubo equo, la cena o la breve vacanza con un contenuto di equità e di solidarietà in più. Di che si tratta, Ceretti? Assolutamente, si tratta di un prodotto molto, diciamo, nuovo, perché questi tipi di cofanetti, nel nostro caso un tubo, sono comunque di recente costituzione e che comunque ha preso già un larghe fasce di mercato, ormai lo si trova dappertutto, E sì, nel nostro caso specifico si tratta proprio di un prodotto dove si vuole valorizzare il chilometro zero, si vuole valorizzare le cooperative sociali che fanno inserimento lavorativo o quello che è all'interno di ITR, che è l'Associazione Italiana Turismo Responsabile, nell'ambito appunto del turismo responsabile. Quindi diciamo che è un'alternativa al classico, appunto come dice sì, te, prodotto Smart Box, però diciamo con un valore aggiunto per noi, che è la sostenibilità e tutto quello che ne consegue. Ecco, magari poi Ceretti ci può fare anche qualche esempio, così per invogliare, per ingolosire anche gli ascoltatori. Intanto però io l'ho annunciata dicendo che lei ha cambiato vita per fare tutto questo. Lei lavorava alla IBM, credo, sì, questa è la sua storia, insomma. E poi a un certo punto ha pensato a questo progetto, non stava più nei panni del dipendente. Che è successo? Ma più che in questo progetto, diciamo che è nato nell'ultimo anno, ormai sono quasi 4 anni e mezzo che la scelta di lasciare un posto sicuro dove i miei mi hanno subito detto: ma sei diventato pazzo, cosa ti è successo? Beh, in effetti, insomma, tra l'altro l'IBM è un'azienda abbastanza solida, insomma, per usare un eufemismo. Assolutamente, assolutamente, anzi anche una bellissima azienda sotto quel profilo. Però c'era un momento, non lo so, della propria vita, un momento particolare dove... Quanti anni aveva, se possiamo chiederglielo, al momento in cui ha lasciato? Sì, avevo 34 anni. Quindi nel pieno della maturità e della attività professionale. Sì, anche perché all'interno dell'IBM comunque avevo una bella attività, mi permetteva di girare molto a livello europeo, quindi comunque il posto di lavoro era molto interessante, molto bello, però alla fine comunque... mancava qualcosa, non lo so, qualcosa, quello di dire vorrei fare qualcosa di mio, ma nello stesso momento fare qualcosa anche, non dico di utile, perché alla fine tutti facciamo sicuramente qualcosa di utile, però dire posso fare qualcosa in più nella società. E da lì è iniziato un discorso sul turismo responsabile, ecco, di creazione. Sì. No, ma dove ha trovato, ecco, anche questo potrebbe essere un messaggio da dare un po' in giro a 360 gradi, la forza per fare questo passaggio? Una forza che a volte sembra di poter dire che manchi magari nei più giovani che oggi si affacciano nel mondo del lavoro e che, come dice il ministro Fornero, facendo infuriare un po' tutti, però non ha tutti i torti, sono ciusi. Lì bisogna essere determinati, soprattutto poi bisogna credere in se stessi, forse, giocare, investire su se stessi, dire mi metto in gioco di nuovo, perché comunque ho già costruito, ho già qualcosa di sicuro, sì, però se non si costruisce qualcosa investendo proprio sulla propria persona, e bisogna avere coraggio, come dicevi prima, se non si ha il coraggio di farlo. Anche perché io sono convinto che veramente se qualcuno crede fortemente in qualcosa, alla fine, dico, grossi sacrifici all'inizio, perché sì, comunque passare, cioè non sto dicendo che si passa all'Eden, i primi anni sono stati molto difficili, molto. Quindi molto, insomma, difficili. Crederci, avere il coraggio, ma anche darsi il tempo, perché se ho capito bene, Alberto, sono passati alcuni anni da quando lei si è dimesso dall'IBM con un progetto di vita diverso a quando ha trovato la strada giusta con questa attività, appunto la vendita di questi pacchetti vacanza solidali, EcoTube, quindi darsi anche il tempo, non arrendersi, insomma, subito. Assolutamente, infatti sul turismo responsabile ho investito personalmente insieme a altre persone in questa cooperativa, perché comunque credevamo che si poteva fare un turismo diverso, appunto con dei valori, anche quello. Non è che il turismo è tutto importante, è fondamentale, non esiste il turismo bello o brutto, il turismo è importante, è fondamentale, sì, però uno può fare la scelta di dire viaggio responsabilmente, dico piuttosto che andare in un villaggio turistico 5 stelle vado in una comunità locale gestita da magari dalla comunità locale stessa e i soldi rimangono all'interno della comunità, però quello è stato un grosso investimento personale in credere in questo, comunque molto difficile, perché comunque non è quello che possiamo dire oggi, ma ci ha portato me insieme a altre persone, sì, con cui collaboriamo adesso, a veramente aver creato un prodotto che sta ci ha creato il nostro lavoro. Cioè non è che in 5 minuti uno trova l'idea e poi arrivano subito i frutti, ci vuole tempo. E mai abbattersi, naturalmente. Tra l'altro lei non solo non si abbatte, ma sta dando anche da lavorare a un po' di persone. Avete una cooperativa e se non ho letto male, sull'Eco di Bergamo qualche tempo fa, lei ha annunciato che vuole allargarsi ancora? Assolutamente, noi sicuramente dovremo allargarci perché ormai stiamo crescendo, adesso abbiamo chiuso anche un grosso accordo con una GGO, quindi oltre alle botteghe ecosolidali dove sono il nostro target, perché siamo partiti da lì, siamo andati alle agenzie di viaggio e adesso stiamo entrando anche nella grande distribuzione. Penso che da un gruppo di siamo giovani, perché io comunque sono in media all'età con gli altri, quindi siamo tutti giovani e alla fine siamo partiti da un anno e mezzo con EcoTube, un anno di progettazione perché abbiamo dovuto lavorare dietro prima per creare il prodotto. In giro di poco tempo, veramente, a mio avviso abbiamo fatto un miracolo, però ripeto, grossi sacrifici prima, cioè grosse difficoltà. Però adesso raccoglie anche i frutti di questi sacrifici e questo ci fa piacere per lei, ma ci fa piacere anche per noi perché ci dà una possibilità in più di scegliere cene e piccole vacanze con contenuti di equità sociale e di solidarietà. Grazie Alberto Ceretti per essere stato con noi. Sì. Posso dire solamente che per dicembre, poi per Natale, sì, abbiamo bellissimo nuovi prodotti, perché abbiamo fatto col WWF nuovi pacchetti. Benissimo. Saranno due pacchetti e poi con gli ostelli d'Italia. E dove si trovano? Nella grande distribuzione avete fatto un accordo? Nella grande distribuzione. Diciamo anche il nome, non c'è problema. Allora i primi con cui siamo l'Ipercop. Ok, quindi chi fosse interessato, in quale regione d'Italia? Perché non credo sia ancora Piemonte e Liguria. Lombardia, Piemonte e Liguria, per iniziare Ipercop potete trovare EcoTube, l'iniziativa di Alberto Ceretti. Poi se si allargherà ve lo faremo sapere. Grazie per ora per essere stato con noi, Alberto. E allora adesso siamo quasi alla pausa per il traffico, prima però vi lasciamo alla nostra segreteria telefonica, alla ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Telefono perché si può fare, allora si può fare di evitare che una persona qui faccia bere con questi politici. Ecco, ho sentito che la Polverini ancora sempre comanda ancora lei e assegna ancora Soriscia amici, e si sta comportando come così si è comportato il presidente della Sicilia Lombardo. Ecco, si può fare per piacere evitare che la gente sentire queste cose si ammala il fegato, per cortesia, si può fare, si può escogitare qualcosa? Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E avete sentito questa ascoltatrice che nella nostra segreteria telefonica 828 12 12 si lamentava della permanenza della presidente del Lazio Polverini. Si può fare qualche cosa per mandarla via, si chiedeva, dopo gli scandali che ci sono stati in quella regione. Era un po' un'eccezione rispetto ai messaggi che noi aspettiamo alla segreteria telefonica, le vostre ricette per salvare l'Italia in un minuto. Questo era più che altro un appello. Adesso con il prossimo ospite, che è una delle nostre storie, come è andata a finire. It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because 2 times 3 is 6. And 3 times 6 is 18. And the 18th letter in the alphabet is R. Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Riduci, riusa, ricicla. E noi abbiamo qua un nostro gradito amico, Francesco Cucari, studente e inventore, che a ridurre, riutilizzare, riciclare ha dato sicuramente una mano con la sua invenzione. Francesco, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. L'avevamo incontrato qualche mese fa, quando aveva lanciato la sua applicazione, il suo sito internet per favorire il riciclo dei rifiuti, il dizionario dei rifiuti. Adesso lo ritroviamo dopo qualche mese per vedere come è andata a finire questa iniziativa, che ha avuto, Francesco, degli sviluppi. Partiamo subito da questi nuovi sviluppi. Cosa c'è oggi sul tuo sito, di che cosa si tratta e anche la tua applicazione? Allora, il dizionario dei rifiuti non è più solo un semplice motore di ricerca, ma punta ad essere un servizio di pubblica utilità per i cittadini alle prese con la differenziazione dei rifiuti. Infatti è possibile visualizzare il calendario di raccolta della città o addirittura del proprio quartiere, è possibile ricevere una notifica sullo smartphone per non dimenticare quando si butta una determinata tipologia, ed è anche possibile consultare tutte quelle informazioni riguardo ai punti di interesse come centri di raccolta, ufficio ambiente. Tutte cose che uno, Francesco, cerca e non trova mai, è vero, perché si va su internet, si comincia a smanettare gli orari, gli indirizzi, non si trova mai nulla. E invece tutto questo è possibile. Qual è il canale? Ricordiamo l'indirizzo di questo sito. La versione web è raggiungibile all'indirizzo www.dizionariodeirifiuti.it, ma sono disponibili anche le versioni Android e iPhone. E quindi sono, diciamo, delle applicazioni che si va nello store, diciamo, e si possono scaricare. E qui, sì. Si chiama sempre il dizionario dei rifiuti. Sì, esatto, sempre il dizionario dei rifiuti, ed è presente sia nello store, nell'Apple Store, che sul Google Play. Insomma, è interessante anche perché spesso i cartelli che ormai ci sono nei condomini, i dépliant che dicono come si fa a riciclare, dove metto la lattina del tonno, piuttosto, però c'è sempre un dubbio, uno arriva di fronte al cassonetto, non sa mai esattamente dove buttare l'oggetto giusto. Invece con questa applicazione uno se la può mettere anche sul cellulare. Se ha un dubbio, poi naturalmente si impara, non è che si va a consultare tutte le volte, però si chiarisce il dubbio e si sa esattamente quello che si deve fare. Come ti è venuta in mente all'origine questa idea, Francesco? È un'idea che sembra banale, però prima di te non ci aveva pensato, credo, nessuno. Sì, questo sì, prima di me non esisteva qualcosa di simile in Italia. L'idea è nata perché nel mio paese, Rotondella, in provincia di Matera, è partita tempo fa la raccolta porta a porta e mi sono accorto che in famiglia, ma non solo nella mia, l'impatto con la differenziata è stato abbastanza positivo, però molte volte ci chiedevamo dove gettare i diversi rifiuti, e così per gioco è nata l'applicazione. Per gioco. Poi, però ha preso piede, perché tra l'altro, scusami Francesco, ma diciamo anche questa cosa qua, ci sono già diversi comuni che stanno aderendo, perché ogni comune ha delle regole diverse, quindi l'applicazione, per essere perfettamente declinata sui singoli casi, ha bisogno di essere geolocalizzata, ho detto bene? Sì, esatto, sì. Oltre alla ricerca standard è prevista anche la ricerca geolocalizzata. Hanno aderito finora 25 comuni, tra cui Genova, Napoli, Belluno e Ancona, ma puntiamo con la nuova versione ad aggiungere nuovi comuni. E infatti già nei primi giorni abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte di persone. Benissimo, e insomma un'iniziativa che era nata quasi per gioco e che ha trovato un primo sviluppo, adesso ha avuto una rinascita. Bene, siamo contenti. Grazie Francesco Cuccari, studente, inventore, e speriamo che questa invenzione abbia ancora dell'altro futuro. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Oggi è tutto anche per questa puntata di Si può fare. Io ringrazio Franco Piantanida in redazione, Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma, Gianmarco Ferronato in regia quest'oggi. Noi ci risentiamo sabato prossimo a mezzogiorno con Si può fare. Buona giornata anche da Alessio Maurizi. La soluzione del problema delle pensioni, dando per scontato di mandare a casa tutti i cialtroni, Mastra Pasqua, quella gente lì con 24 incarichi, ecco, e poi per una tassa transitoria per 3-4 anni che su tutte le pensioni superiori a 4.000 euro, che sia di circa il 95% per la cifra che le sopravanza, in modo da rimettere in pari i conti dell'INPS e da poter dare anche ai giovani una pensione che consenta loro di vivere e non costringerli a fare rapinatori in tarda età. Mi sembrerebbe una cosa fattibile, oltretutto la maggior parte di quelli che prendono 4.000 euro difficilmente se li sono guadagnati sudandoseli, li hanno tenuti piuttosto attraverso leggi, relazioni, malversazioni, era piena del lavoro, del sudore, di quanti alla mattina si alzano alle 7 e cominciano a camminare, siano essi imprenditori o lavoratori dipendenti o professionisti. Vi saluto e vi abbraccio. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.